Eteros. È un termine. Vediamo se ho delle slide apposta. La 12 forse? Ah sì, grazie. Sì, Eteos è simpaticissimo. È molto bello. Provo a spiegartelo così prima, perché fa strano anche questo. Come ti dico, sono più che altro regole euristiche. Parlavamo del carrello di Mason prima. Ok. Il carrello di Mason nel corso degli anni si è spostato. Avendo le ruote. Ha le ruote, è un carrello. Ha cambiato immagine, ha cambiato posizione, insomma. Ma noi siamo sempre in grado di trovarlo, perché lo riconosciamo. Non... Cioè, dici noi come essere umano, sì, quando adesso... guardiamo proprio la pagina di Amazon. Sì, non ti includerei tra gli esseri umani. Beh, vabbè, faccio per generalizzare. Ok. Dunque dicevo, noi lo riusciamo a trovare. Cioè, con gli occhi, con l'intelligenza, riusciamo a riconoscere che quello è un carrello. Allora, col tempo hanno pensato di rendere più espressivo anche, diciamo, per farla proprio spiccia, il JSON che ti ritorna un'operazione. Tu fai finta che chiedi uno studente. Quindi ti fai la tua bella get alla risorsa studente e questa ti arriva. Dicono, perché oltre allo studente non aggiungiamo anche dei link per specificare delle modifiche che tu, delle cose, delle operazioni, altre operazioni che tu puoi fare con questo studente. Cosa ci puoi fare con questo studente? Sì, vado a esemplificare. Per esempio, ci potrebbe essere un bel link che dice dettagli. Quindi io chiedo uno studente con questa, con un'API di un nostro servizio. Esatto. Il servizio mi risponde con le informazioni dello studente, nome, cognome, e in più mi dà delle informazioni su ulteriori azioni diciamo, che io posso fare su questo oggetto. Sì, ti dice guarda. Puoi chiedere anche il dettaglio della carriera, sì, per oppure dire. Non so, posizione finanziaria. Quindi il tuo codice, in linea astratta, molto astratta, non si fa, ma in linea astratta, diciamo, potrebbe cercare questi elementi semantici tipo modifica, dettaglio, posizione finanziaria e poi costruire dei bottoni dinamici con il link che gli viene passato. Questo è un'esagerazione, ok? Invece una cosa veramente che puoi fare è, per esempio, salva, rimuovi, cancella, li vai a cercare lì e le URL te le fai dare. Te le costruisci? Sì, dinamicamente. Okay. Il vantaggio è che il server chiaramente può, se cambia logica... Sì, stai rendendo il client più indipendente dalle modifiche anche proprio dell'API. Infatti è proprio di quello che stavamo parlando, cioè un altro modo proprio per renderlo... Questo mi piace. Questo è interessante, sì, è molto interessante. Ora poi il livello esagerato... che trovi scritto in giro non lo so. Sì, mi immagino già qualcuno che stia pensando di fare un'interfaccia totalmente dinamica che costruisce tutto da solo partendo dalla prima chiamata. Sì, i limiti che sono, mi sembra una follia. È una follia. I limiti sono, tu come client devi sapere che parametri ad esempio passare a queste operazioni. Se sono operazioni in lettura tipo get, va bene, non hanno parametri, non so, il dettaglio non ha parametri. Ma se... Ah sì, perché in questa URL è già specificato anche l'ID dello studente, capito? Quindi in pratica è lì che ti viene il servizio prevede il parametro, però tu la stringa che ti arriva è già pronta per essere lanciata. Però intendevo dire un'altra cosa, no? Se tu devi mandare dei parametri invece diversi che sa l'applicazione, non il servizio, lì come fai a mettere un bottone automatico? Non puoi. Però comunque è una cosa che secondo me dovremmo utilizzare perché è molto parlante, cioè ti dà anche delle informazioni. Io sto pensando ad esempio adesso stanno spopolando col fatto di REST tutto quanto, anche diversi strumenti che ti documentano ad esempio le interfacce REST dei tuoi servizi, e mi viene in mente Swagger che va tantissimo di moda. Sì, praticamente sono strumenti automatici per documentare la tua API, l'equivalente JavaDoc per chi come noi ha avuto il dispiacere di lavorare in Java. l'odio. Nell'ottica di queste interfacce REST. È vero. E questo 8OS, che quando l'ho letto la prima volta pensavo fosse un altro sistema operativo, ma non c'è una Hypermedia as the engine of application state, cioè l'ipertesto. Ma tu sai le lingue? No, ho imparato solo questo con Google Translate. Ho imparato questo. No, ecco, sì, è proprio quello, è una forma di documentazione. Cioè, ti sta dando delle informazioni proprio anche a te, sviluppatore, che ti trovi a maneggiare tutte queste API, perché poi tanti servizi vuol dire tanti API. Infatti. E quindi ti trovi lì a dover capire che cosa devi chiamare per fare quello che ti è stato chiesto. Con questo approccio tu hai anche informazioni in più che ti aiutano a capire come usare l'API. Infatti, contrariamente a quanto ho detto poco fa, e mi smentisco da solo, ma solo gli stupidi non cambiano mai idea. Sei sicuro? Assolutamente. Va bene. No, dicevo, infatti ti arrivano spesso in applicazioni serie, quelle non fatte da noi, intendo, come Eteos, ti arrivano anche dei link a delle cose che richiedono dei parametri passati dall'applicazione, ma tu sviluppatore, quando leggi, no, che ad esempio c'è un modifica, dice c'è un modifica, spesso lì c'è anche scritto un riferimento a un link dove andare per leggere, dove lo sviluppatore va a leggere il reference dell'API, capito? Okay, quindi diventa proprio, come suggerivi, come avevi intuito, una forma di documentazione che sostituisce il WSDL, più alla mano se vuoi, come tutte queste tecnologie sono più di bocca buona, cioè semplicemente ti mette un link e tu te lo vai a leggere, però tu puoi vedere che hai nuove funzionalità e implementarle più o meno facilmente. Bene, concludiamo il discorso delle API, forse siamo stati troppo lunghi. No, sono convinto che qualcuno là a casa ancora ci ascolta. Va bene. Parlavamo appunto del modello dati esterno. Questo era un suggerimento ai progettisti.